Componimento 92° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Piangete, donne, e con voi pianga amore. Piangete, amanti, per ciascun paese, poi che è morto colui che tutto intese in farvi mentre visse al mondo onore. Io per me prego il mio acerbo dolore, non sian da lui le lagrime contese, e mi sia di sospir tanto cortese quanto bisogna di sfogare il core. Piangan le rime ancor, piangano i versi, perché il nostro amoroso messer Cino novellamente s'è da noi partito. Pianga Pistoia e i cittadin perversi che perduto hanno sì dolce vicino, e rallegresi il cielo ov'ello è gito. Fine del componimento.